Sentivo alla radio che in questo momento il mondo intero è prostrato sotto questo Covid. In particolare mi impressionava sentire che il 10% della popolazione mondiale ha a che fare con questa pandemia. 10% è tanto, amici. 10 persone su 100 vuol dire, come media, una decina di persone ogni 100 anche della nostra comunità. Le statistiche poi sono quello che sono, ma giusto per orientarci. E allora, di fronte a questo, che si ripercuote anche nel nostro paese con questi appelli a riprendere in mano la vigilanza, a superare la superficialità nella quale magari siamo stati tentati di cadere un po', noi dobbiamo fare i bravi cittadini, vigilare, usare tutte le precauzioni indicate, ma anche fare i bravi cristiani, pregare, pregare, pregare, amici. Ora, su questo pregare, e pregare con abbondanza, però dobbiamo ricordare anche la parola di Gesù. È inutile moltiplicare parole, parole, parole. Io ammiro coloro che mi dicono, io dico 4-6 rosari al giorno. Dico, caspita, io non sono capace, però non sento neanche che quella sia la mia vocazione, perché io sento di approfondire la preghiera magari col rosario, ma anche con la meditazione sulla parola di Dio, la meditazione sulle verità della mia fede. E stamattina, che è la festa della Madonna del Santo Rosario, prendo una parte dell'Ave Maria per suggerirvi, se volete, come dobbiamo fermarci anche sulle parole, meditare. Io stesso questa mattina meditavo sulle ultime parole dell'Ave Maria: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. E mi rivolgevo alla Madonna e dicevo: Madonna, tu a noi chiedi di pregare, ma poi tu stessa preghi per noi. Prega per noi peccatori. Lo riferivo a me: prega per me peccatore adesso. E mi fermavo su questa parola adesso, adesso, oggi, questo momento. E quindi in questa situazione di pandemia, ma anche adesso, io sono assalito da decine, ma decine di casi di famiglie disfatte. In particolare sono colpito dal fatto che le donne, in maniera più grande forse che in passato, stanno disfacendo le famiglie, mandando via mariti o andandosene loro, avendo pretese incredibili. È un momento così, magari mi colpisce a me, a voi colpirà altro, ma sto vedendo il grande sfacelo. E allora io sto pregando tanto in questi giorni per queste famiglie, in particolare per questi uomini, perché alla fine il più povero è l'uomo, che deve andare fuori di casa. Mi diceva uno: Don, devo comprare le pentole. Io ce l'avevo una casa, ce l'avevo un indirizzo. Basta, quella non è più casa mia. Devo uscire, devo dare dei soldi, giustamente, per i miei figli e per la mia ex moglie, dice. Ma poi devo mantenere anche me, c'ho bisogno della macchina per andare al lavoro, c'ho bisogno di un locale. E poi, quando devo ricevere i miei figli qualche fine settimana, dove li ricevo? In un bugigattolo? Cari amici, abbiamo sempre puntato l'attenzione sulla donna poverina e continuiamo a farlo. Ma io sto vedendo la povertà di questi uomini che si trovano smarriti, soli, tante volte con colpe, tante volte senza colpe. prega per noi peccatori adesso. E allora, se posso, suggerisco anche a voi, proviamo a smetterla di pregare per i nostri, nostri, nostri, nostri, nostri, nostri. Le vostre preghiere per i vostri figli, per i vostri nipoti, va bene, ma smettiamola un po', preghiamo anche per gli altri. Se no siamo egoisti anche nella preghiera. Il Signore cosa ci dice? Dice: io conosco i tuoi nipoti, conosco i tuoi figli, ma io sono padre anche degli altri, sai? Chi prega per gli altri? Prega per noi peccatori adesso e poi nell'ora della nostra morte. Io riflettevo per me, poi qui anche voi non è che siete tutti giovanissimi, eh? Pensiamo alla nostra morte, anche con la fantasia. Come sarà? Lo sa il Signore come ci arriveremo, se arriveremo a morire da sani o da malati o da cronici o da abbandonati o da curati o da badati, lo sa il Signore, però dobbiamo anche noi pensarci un po'. Per esempio, vi butto lì qualche riflessione che facevo anch'io, smettiamola di comprare roba. Se abbiamo già una certa età, cosa continuiamo a comprare? Cosa continuiamo ad accumulare? Tanto poi i nostri figli butteranno via tutto, eh? Cominciamo noi a non comprare più e casomai a regalare qualcosa. Cominciamo a svuotare le nostre case, amici, non comprando più. Cominciamo a pensare anche ai nostri soldi, sia ai nostri nipoti, ai nostri figli, ma anche agli altri. Ma anche agli altri. Nelle eredità pensiamo anche alle associazioni benefiche, dalle parrocchie ad altre associazioni cristiane o laiche, secondo il vostro gusto, nell'ora della nostra morte. Perché non manca tantissimo, amici. E ancora pensare nell'ora della nostra morte, facciamo la pace con la gente. Non è possibile stare anni, anni, anni, anni. Ma come devo fare? Insomma, pensaci tu. Pensaci tu. C'è un anniversario, c'è una festa di Natale che arriverà. Manda un messaggino. Un messaggino ti costa poco, però arriva a destinazione subito. Facciamo la pace con la gente, amici. Preghiamo di più. Smettiamo anche lì di lavorare. Ma devo curare i miei nipoti. Fai bene, ma pensa un po' anche alla tua anima. Andiamo a messa tutti i giorni, con un po' di fatica, con un po' di inventiva. Andiamo a messa tutti i giorni. Raccogliamo punti sulla tessera paradiso. Coraggio. Prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.